La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon Natale purpure, buon Natale a tutti gli amici che ci seguono, a tutti gli amanti del cinema e a tutti gli ascoltatori di Radio 24 da Franco D'Assisi, puntata speciale della Rosa Purpurea, speciale di Natale, in questo primo Natale forse della storia senza la sala cinematografica. Era il momento questo in cui i cinema si riempivano nel pomeriggio di Natale, soprattutto a Santo Stefano e poi in tutto il periodo che andava fino all'Epifania, era la stagione d'oro, la golden age del cinema, ogni anno il Bengodi dell'esercente. Quest'anno non sarà così perché il Covid ce l'ha impedito, però tante cose da vedere ci sono comunque in casa nello streaming e le segnaleremo nella nostra puntata fra virgolette normale della Rosa Purpurea, che andrà in onda sabato alle 18 come sempre. Però in questa puntata natalizia vogliamo fare un po' il punto su questo Natale senza sala, sulle prospettive, su cosa significa, su cosa possiamo fare, sulle storie più belle che questo Natale cinematografico ci regala e anche su quello che da vedere c'è, perché come dicevo in streaming arrivano film nuovi proprio in questi giorni, addirittura in queste ore, per esempio Tutti per uno, uno per tutti, stasera su Sky, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Pierfrancesco Favino che sarà qui con noi fra poco alla Rosa Purpurea per farvi gli auguri e per raccontare la sua partecipazione a questo sequel del film di Veronesi sui moschettieri. Parleremo anche di una bella iniziativa natalizia della piattaforma Mio Cinema, che ha messo lì una dozzina di film di Natale d'autore, alternativi, di qualità, da poter vedere al modico prezzo di 3,90€. Ne parleremo con Andrea Occhipinti, ma il nostro super ospite di questa trasmissione è senza dubbio Pupi Avati, che sarà un po' la nostra coscienza critica con la sua saggezza, la sua esperienza, colui che ci farà vedere dove sta andando il cinema, dove è andato in questo 2020 e dove potrebbe andare nei mesi futuri. Sentiamo subito una clip che è la clip forse più natalizia, anche se in tinte noir, che si potrebbe avere da un film di Pupi Avati. Senta, io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria e so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo. Come non posso permetterlo? Perché? Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare. Come senza nessuna garanzia? Scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Come senza nessuna garanzia? L'immobile non è suo, non è così. L'immobile non è mio, ma non ha nessuna importanza l'avviamento, la gestione delle attrezzature. Valore? Ma che ne so, sarà più di 500 milioni, ma lo sanno anche loro, ma lo chieda loro, scusi. Lei conferma quanto il signore dice di possedere? È chiaro che confermo, certo. Certo, lo confermo, poi lo sanno tutti. È nel cuore di Milano, no? Bene, allora mi scusi, possiamo continuare. Continuiamo. Regalo di Natale, come dicevamo, il film forse più natalizio, anche se a tinte fosche, dell'immensa filmografia di Pupi Avati, che è in collegamento con noi alla Rosa Purpurea, speciale Natale. Ciao Pupi e buon Natale anche a te e ai tuoi cari. Ciao Franco, grazie per l'invito e l'opportunità di fare gli auguri a chi ci ascolta. No, hai utilizzato, sei ricorso in effetti al più dissacrante fra tutti i film di Natale che si siano mai fatti, credo, perché adesso nel profluvio dei film di Natale che sono su streaming da tutte le parti vedo che c'è soltanto una versione del Natale, che è quella giustamente più rassicurante, soprattutto indirizzata a un pubblico di bambini o comunque di adolescenti, ecco, o comunque le famiglie. Il mio film, al quale fece seguito un sequel che era Rivincita di Natale, era tutt'altra cosa, insomma, infatti non fu programmato a Natale, ma fu programmato in un altro periodo dell'anno, tuttavia fu un grande successo. Anche perché, Pupi, potremmo dire sarcasticamente che almeno quell'esercente interpretato da Diego Abatantuono aveva un cinema da potersi giocare al tavolo verde del poker. A rifarlo oggi ci sarebbe il rischio di avere un cinema chiuso anche a Natale. È bellissima questa tua comparazione, molto acuta, in effetti non me lo ricordavo, ma in effetti è proprio così. Lui aveva un cinematografo da giocarsi. Adesso i miei amici esercenti, che sono diventati ancora più amici perché voglio loro molto bene in questo momento così difficile, che era già stato difficile per il primo lockdown e con questo secondo, con questa reiterata chiusura diventa ancora più complicato, insomma li vedo in grande affanno e c'è un grande pericolo, Franco, che il cinema di sala esca dalle abitudini degli italiani, di tutti noi degli occidentali, perché un po' questo rischio incominciava già a esserci e gli esercenti faticavano già tantissimo a tenere aperto, soprattutto i monoschermi che vedevamo via via chiudere, adesso anche le multisale. Quindi soffrire molto per l'esercizio, soffrire molto per il fatto che il film, io ho finito un film adesso e sono estremamente lusingato dal fatto che Vision e Sky, che sono i miei committenti, abbiano deciso, dopo aver visto il film, di farlo uscire in sala, di non farlo uscire in streaming. E questo vuol dire che insomma l'hanno in qualche modo decorato, gli hanno dato una medaglia, per cui si aspetterà la sala. Ma nello stesso tempo però è anche rammarico di dover attendere per avere questo, per condividere con un pubblico e soprattutto anche con voi critici, insomma, una sorta di riflessione su quello che ho fatto, perché poi è molto importante. Pupi, tu avevi 6-7 anni negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi magari non ricordi, ma le sale cinematografiche, soprattutto a Natale, non chiusero nemmeno durante la guerra, forse addirittura la prima volta dalla nascita del cinematografo. Credo, temo di sì, temo che sia la prima volta, dovevamo vivere anche questo tipo di esperienza. E c'è un mio amico esercente importante e significativo del Centro Italia, che ha 120 dipendenti, ha delle multisale fra la Romagna, le Marche, e sono 120 famiglie, mi dice che sono in difficoltà. Lui non vuole licenziarli, però è evidente che fra un po', probabilmente se durerà ancora un po' questa cosa, sarò anche costretto a farlo. Pupi, una cosa sulla quale secondo me non si è ancora riflettuto, ma che trovo molto importante, forse la più importante eredità negativa che questa pandemia rischia di lasciare alla sala cinematografica, anche nell'indifferenza o nella mancata percezione di molti, è il ruolo fondamentale che il passaggio in sala ha nella formazione di un brand del film, nella sua fissazione nell'immaginario collettivo. Un film diventa ufficialmente un film quando passa in sala, anche nella mente della gente che lo ricorda e fa partire il passaparola. Cosa ne pensi? C'è un'equazione che ho immaginato io, ecco, se tu vai a vedere un film al cinema, comanda il film, nel senso che tu entri in sala, da quel momento tu sei ostaggio del film. Non ho mai visto, è rarissimo che io veda qualcuno entrare in una sala cinematografica, inizia il film e dopo 10 minuti andarsene. Se vedi un film in televisione o in qualunque altro, su qualunque altro device, comandi tu. Sei tu che dopo un attimo, dopo i primi 3 secondi, puoi decidere che la cosa non ti piace e definitivamente cambiare. Cioè sono rapporti completamente rovesciati. E poi la sacralità, il rispetto, il silenzio nel quale la concentrazione, al di là delle dimensioni, con i quali tu segui la proposta sullo schermo cinematografico di una sala, è completamente diversa da quello che il tuo rapporto col film. Però nello stesso tempo ci sono anche degli aspetti misteriosamente positivi, perché per esempio mi ricordo che la prima volta che mi fu regalato un VHS di Quarto Potere, l'idea di poter avere Quarto Potere mio, fisicamente mio, e di poter me lo mettere nel registratore, ecco, tu cura, nel registratore, ecco, poterlo vedere da solo è anche un'altra esperienza, però insomma è un po' rapporto uno a uno che hai col libro. Il rapporto uno a uno che hai col libro fa sì che chi narra, chi racconta, chi scrive praticamente stia raccontando la storia a te, ed è una qualità del rapporto completamente diversa. È evidente che io, avendo vissuto esperienze paragonabili televisive e cinematografiche, le cose che ho fatto per la televisione molto spesso il giorno dopo si erano volatilizzate, e al di là di una riproposta, di una rimessa in onda così non si sa quando, non si sa come, ma sparivano completamente dai palinsesti e sostituite immediatamente da quello che sarebbe andato in onda il giorno dopo. Mentre, come dicevi tu, un film ha una sua misteriosa permanenza. Io ancora mi avvantaggio di film miei di 40 anni fa, che ancora esistono e che ancora vengono programmati e che ancora vengono inseriti nelle rassegne e dei quali ancora si parla. Mentre tutto quello che ho fatto per la televisione, insomma, in qualche modo non c'è più. A parte il fatto che con i film puoi partecipare a festival, insomma, poi hai modo di avere una circuitazione che è completamente diversa da quella che è la messa in onda televisiva. Pupi, rimani con noi perché fra poco andremo avanti a parlare di cinema in questo Natale senza sale, anche di prospettive dopo la pausa, fra poco. La rosa purpurea. Allora? Per te benissimo, per il film molto meno. Scrivono che l'unica cosa buona del film sei tu. Elio è deluso, sta parlando con suo padre. Lo sapevi che per fare questo film gli ha fatto vendere la casa al mare? Ma qui ne parla bene. Solo di te e tutti, ma loro non lo sanno che gli hai fatti morire con tutte le tue pretese. La clip da Festival di Pupi Avati del 1996 con Massimo Boldi nel suo primo ruolo drammatico. Del resto Pupi Avati è stato un grande iniziatore di ruoli drammatici, di attori comici, come fatto anche per esempio con Diego Abatantuono. Ci apre questa seconda parte della Rosa Purpurea speciale di Natale. Pupi Avati è in collegamento con noi. Abbiamo scelto la clip di un film in cui Pupi Avati parla di cinema, perché di cinema stiamo parlando, con il grande regista bolognese. Pupi, dopo questo secondo stop, quello di fine ottobre, con le sale nuovamente chiuse, si è avvertita nelle varie componenti della filiera del cinema in sala, forse anche in qualche esercente, una certa rassegnazione. Ci si è anche comprensibilmente accontentati di essere stati inseriti nei cosiddetti ristori, ma forse non si è difesa abbastanza l'unicità dell'esperienza della sala come luogo unico e imprescindibile per chi ama il cinema, che poi è il vero investimento possibile sul futuro del cinema in sala. Cosa ne pensi? La rassegnazione l'ho avvertita anch'io. E anch'io mi sono un po' stupito che fosse bastato così poco perché in effetti almeno per il cinema che amiamo tu ed io, ecco, l'esercente cinematografico per delle ragioni purtroppo di pura sopravvivenza via via si è sempre più allontanato da quella che viene definita con un termine un po' così riduttivo sulla filiera di quelli che fanno il film, non li sento più così vicini alla difesa del prodotto, del progetto, all'orgoglio. Una volta l'esercente cinematografico faceva parte del progetto, noi andavamo, faccio un po' di archeologia cinematografica, ma noi quando realizzavamo i nostri film negli anni 60 e 70 facevamo il giro d'Italia degli esercenti cinematografici che ci davano le cambiali, cioè prima ancora di partire col film si andava dagli agenti regionali a raccogliere le cambiali per poter poi produrre il film. Quindi l'esercente partecipava all'atto creativo, erano degli elementi fondamentali, perché tu sai che senza soldi i film non si fanno. Quindi andavi a raccontare alla gente, si chiamava Landi, del DM di Bologna, Emilia Romagna, e andavi a raccontare la storia di, non so, la casa Finestre che ridono, e lui ti dava 15 milioni di cambiali. Poi andavi nel Veneto, andavi da Proto, mi sembra che si chiamasse, e raccontavi la casa Finestre che ridono. Erano dei viaggi stupendi, meriterebbe un film una storia così. Pupi, proviamo a gettare uno sguardo anche di speranza sul futuro. A un certo punto le sale dovranno pur riaprire. Come faranno ad andare alla riconquista del pubblico per la terza volta in un anno? Qual è la tua proposta? Questa è una bellissima domanda alla quale io non ho una bellissima risposta, perché non lo so in realtà. È evidente che io punterei su questa mancanza. Probabilmente la gente avrà voglia di uscire, di fare tutto quello che non ha fatto per tanti mesi, e quindi come si riempiranno i ristoranti è probabile che si riempano le sale cinematografiche, soprattutto se ci saranno delle proposte un po' alternative a quello che abbiamo visto volenti o nolenti in streaming durante tutte queste settimane. E allora buon Natale a Pupi Avati, ti aspettiamo nel 2021 col tuo nuovo film Lei mi parla ancora, bloccato anche questo dal coronavirus, e con tutti i tuoi nuovi progetti a partire dal Dante Alighieri con Sergio Castellitto. Grazie a tutti voi e a te Franco, buon Natale ai tuoi ascoltatori. parte della canzone portante della colonna sonora di The Greatest Showman, perché abbiamo scelto questo film, lo scoprirete fra poco, The Greatest Showman, musical del 2017, diretto da Michael Gracie con Hugh Jackman, ci portano dentro la storia di Natale che abbiamo voluto scegliere per questa puntata speciale della Rosa Purpurea Natalizia. Abbiamo detto Natale senza sala, il primo Natale forse della storia senza la sala cinematografica, ma c'è un posto, un puntino nella cartina, Cade Fabbri, provincia di Bologna, dove invece il cinema vive tutte le sere, non vive aperto al pubblico, mica stiamo facendo niente di irregolare, ma vive tutte le sere perché tutte le sere il suo gestore, Morris Donini, apre il proiettore, illumina lo schermo, monta una pellicola, fa partire un film e se lo vede da solo. Ditemi se questa non è una storia di Natale degna di Frank Capra o della Vita è meravigliosa o di Una poltrona per due, tanto per dire un film che di questi tempi passa da 20 anni a questa parte. Perché succede questo? Perché Morris Donini rimane abbarbicato con le unghie e con i denti al suo cinema, il Mandrioli di Cade Fabbri, che negli anni è diventato un punto di riferimento per, non solo per la gente del paesino, ma per tutto il circondario. Si va a vedere un film al Mandrioli, non si va semplicemente a vedere un film. E noi ce lo facciamo spiegare da Morris Donini, che è in collegamento con noi esattamente dal cinema Mandrioli. Ciao Morris, buon Natale! Buongiorno a tutti, tanti auguri a tutti, buon Natale, ciao, grazie dell'invito. Ma guarda, grazie a te di aver aderito per raccontarci e dare anche un po' un senso di speranza. Io prima, mentre raccontavo la tua storia, avevo i brividi, così, da solo, perché effettivamente è una storia di amore per il cinema straordinario, per il cinema come sala, siccome... Per il cinema come sala, soprattutto. Esatto, sì, siccome chi ci segue sa quanto teniamo alla sala cinematografica come presidio sociale, prima che culturale, come luogo più bello del mondo, come l'abbiamo definito, sapere che c'è qualcuno che non si è arreso, quasi con una scelta animista, diciamo così, illumina tutte le sere il suo cinema, perché hai detto tu in un'intervista: almeno fuori si sentono i rumori dei film. È così? Sì, è proprio così. In realtà non è stata una scelta predefinita o calcolata, semplicemente il mio è un bisogno primario di cinema, del mio cinema. Fortunatamente ho un cinema che considero un mio figlio, non avendo figli, e quindi appunto, per me è un bene primario, è un bisogno come l'aria. Quindi se non riesco a entrare nel mio cinema, posso respirare. Quando hai deciso di fare questa cosa e con quali film hai cominciato a riscaldare di nuovo il tuo proiettore? Ah beh, fin da subito. In realtà io cerco di andare tutti i giorni o quasi tutti i giorni, una puntata al cinema nel tardo pomeriggio lo faccio per guardarmi un film, una parte di film, o anche semplicemente per rinchiudermi in sala per pensare, per racchiudere un po' i miei pensieri. Appunto il cinema è il mio luogo dell'anima. E io spazio, non ho un genere predefinito o preferito in questo momento, ho bisogno di film che mi tirino un pochino sul morale. Quindi ho rivisto musical che mi sono piaciute, che mi ricordano soprattutto momenti vissuti all'interno della nostra sala, e abbiamo fatto delle feste bellissime in cui abbiamo proiettato Mamma Mia, The Greatest Showman, il Rocky Horror. Noi siamo abituati, ogni anno facciamo feste in travestì, quindi ci travestiamo, invitiamo il pubblico a travestirsi che segue tutte le nostre richieste, e quindi appunto in questo periodo ho ballato e cantato da solo in sala guardando questi film. Ecco, tu sei diventato esercente giovanissimo, se non sbaglio, no? Sì, ho iniziato, sono già 23 anni, ne ho 46, ho iniziato 23 anni fa, sì, gestendo una piccola sala e ci tengo a ricordarla perché è il mio primo amore, a Castiglione dei Tepoli, nelle colline, al confine tra Bologna, tra l'Emilia e la Toscana. Quando hai scoperto il Mandrioli? Perché dicevi, tu hai cominciato in una piccola sala, però appunto il tuo incontro col Mandrioli, e come sei diventato il gestore del Mandrioli? Io abito in un paese limitrofo a Cade Fabbri, che è appunto un piccolo paesino, siamo in una frazione di Minerbio, un piccolo paesino nella provincia di Bologna, nella bassa, più bassa emiliana, nella pianura padana tra Bologna e Ferrara. E io l'ho scoperto, lo conoscevo, ma era tra virgolette il cinema della concorrenza quando ero piccolo, nel senso che io andavo nel mio cinemino del paese e difendevo il cinema, il mio piccolo cinema di paese. E poi ho scoperto questa sala quando avevo più o meno 18-19 anni e me ne sono completamente innamorato dal primo giorno in cui sono entrato in quella sala, anche perché è stranissimo, cioè in un'epoca in cui non esistono più sale cinematografiche tradizionali, vederti in un paesino di neanche o poco più 1000 abitanti una sala bellissima, enorme, da 400 posti, praticamente in mezzo alle campagne. Noi siamo circondati dai campi, è una cosa incredibile. Ascolta Morris, dicevi prima entro in sala anche per pensare. A che cosa pensi? Cosa ti dà il cinema vuoto? Che tipo di vibrazione ti dà per poter riuscire a entrare in questo stato di concentrazione? Le vibrazioni sono altalenanti, perché ci sono un sacco di ricordi nostalgici, chiaramente, dei mesi, delle stagioni passate, degli anni passati, quindi tutti i ricordi di tutte le tantissime feste e i momenti belli che abbiamo vissuto insieme ai nostri spettatori. E naturalmente questo sono anche di sprono, sperando che siano che mi diano anche la forza di poter ripartire. Il tuo pubblico, quando passa fuori, sente quelle voci che tu vuoi far arrivare fuori dalla sala? Ecco, sì, questo è un gesto molto simbolico, quello che ho fatto. Infatti io proiettavo, proietto tuttora, i film e pensavo di disturbare, sentivo, dato che adesso non passa praticamente più nessuna macchina, quindi sentivo che l'eco usciva della proiezione. Le luci del cinema non si sono mai spente. Il cinema, ok, è chiuso, ma non voglio che passi il messaggio che il cinema è morto. I cinema non sono ancora morti, che molti dicano, nonostante molti dicano il contrario, non è così. Non posso fare a meno di chiudere con una domanda: che film proietterai in questa notte di Natale mentre starai nel tuo cinema? Beh, il mio film di Natale per antonomasia, che è, io tutti i Natali o quasi comunque mi guardo Parenti Serpenti, il classico di Mario Monicelli che io adoro. Mi piacerebbe tantissimo, il mio sogno, poterlo rivedere insieme al mio pubblico, tutti insieme. E allora, sperando che presto si possa tornare tutti al Mandrioli, ma tutti al cinema, ringraziamo Morris Donini, buon Natale, tieni duro e continua a far andare il tuo cinema. Grazie mille, colgo l'occasione per fare un grandissimo augurio di Buon Natale anche ai miei spettatori, che spettatori non sono, perché è un termine riduttivo chiamarli spettatori, perché ormai è una comunità di amici enorme quella che si è creata attorno al nostro cinema. Non posso farlo quest'anno per la prima volta, dopo tantissimi anni non posso farlo dal vivo, ma colgo l'occasione per farlo da qua. Grazie mille. Grazie ancora. A tutti. Morris Donini, esercente del cinema di Cade Fabbri, il Mandrioli, è una storia veramente incredibile la sua. A questo punto noi diamo la linea alla regia, fra poco sarà con noi Pierfrancesco Favino per raccontarci Tutti per uno, uno per tutti, stasera in onda in prima visione su Sky, fra poco. La rosa purpurea. Maestà, i moschettieri. O quello che resta. In realtà starete scortando in gran segreto la principessina Ginevra. Ginevra, io e lei siamo innamorati. Quella ragazzina te la devi scordare. Brigitte Bardot. Mia figlia è stata rapita. Si era rapita? Rapita. I ribelli attentano al trono. La monarchia è in pericolo. No, Pinocchio. Voi siete miei eroi e lo siete sempre stati. Dove lasciamo queste ragazzine? È pieno dei boschi qua. No, come i boschi? Ci sono le lupi, la tigri, le eufrate. Sì, siamo in Mesopotamia. E doveva essere uno dei grandi film di Natale in sala e uno dei grandi film di Natale sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Tutti per uno, uno per tutti, il film di Giovanni Veronesi, che è il seguito di fatto dei Moschettieri del Re, con gran parte di quel cast: Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Pierfrancesco Favino, Margherita Bui e Pierfrancesco Favino, appunto, è in collegamento qui con noi in questa sera di Natale che precede di poche ore la messa in onda della film su Sky Original e anche su Now TV dalle 21.15 di oggi. Ciao Pierfrancesco, ben trovato e ben ritrovato alla Rosa Purpurea e soprattutto tanti auguri di Buon Natale. Auguri a te, auguri a tutti quanti. Allora, parliamo un po' di questo film. Ho sentito una clip già con tanti elementi di gran divertimento, a partire da Adriano Panatta che fa il ciambellano, che è una trovata straordinaria. Avete giocato a tennis almeno? No, babà, Giovanni gioca spesso a tennis. Con lui la cosa più faticosa è stato mettergli una parrucca, perché come tu puoi immaginare, cioè, Adriano va molto fiero dei suoi capelli, che sono un suo marchio di fabbrica, per cui insomma si è lasciato piegare a questo grazie all'amicizia con Giovanni, e da quel momento non gli rivolge più la parola. E invece un'altra cosa che invece è un pochino più una riflessione, se vogliamo, se vuoi, il film ovviamente è un film di grande divertimento, di comico, commedia, chiamatelo come volete, picaresco, avventuroso, come possono essere i moschettieri ovviamente, però c'era questo passaggio nella clip del bambino che dice: voi siete i miei eroi. Ecco, in un momento come questo, quanto può contare, soprattutto per i piccoli che sono stati molto danneggiati da questa pandemia, dal lockdown, dalle lezioni online, in streaming, dal poco poter giocare con gli altri bambini in libertà? Ecco, quanto può contare avere degli eroi così avventurosi? Perché magari sono eroi che non vanno più tanto di moda oggi per i bambini, no? Guarda, io ribalto un po' la tua domanda. Questo film, io personalmente, proprio nel momento in cui lo giravamo, l'ho pensato e lo dedico a quelli che sono i miei eroi di questi giorni, che al di là di tutti quelli che abbiamo già citato in questi tempi, sono proprio i bambini. Sarà che sono papà, ma la pazienza, la capacità di adattamento, la forza che i nostri bambini ci stanno dimostrando, credo che sia da supereroi veramente. E quindi, visto che vengono spesso dimenticati o guardati solo come vittime, io voglio ringraziarli invece del fatto che a noi adulti ci stanno dando forza. Per cui sono felice che questo film possa accompagnare il loro Natale con divertimento, ma il film ha al centro due bambini. Per cui, se non fosse per uno dei due, noi non torneremmo alla vita in questo film. Sono molto centrali e sicuramente questa cosa qui è, come spesso nei film di Giovanni Veronesi, un messaggio nascosto. Per cui i miei eroi sono i bambini, e questo film per me è solo una piccola restituzione di quanto dobbiamo loro. Senti Pier, il tuo D'Artagnan è particolarmente scemo, diciamo, cioè nel senso che ha proprio le stigmate proprio dello scemotto. Mi offendo affatto, ne vado più che orgoglioso. E beh, anche perché ne viene fuori una comicità irresistibile. Abbiamo sentito la battuta che va nel trailer, quella delle tigre, dell'Eufrate, insomma, ma al di là ce ne sono alcune che già stanno circolando. Ecco, come hai lavorato già l'altra volta? Era così, non è che non è migliorato, sì. Però come hai approcciato questo personaggio anche rispetto a quello cavaliere senza macchie e senza paura tratteggiato da Dumas? Ma è proprio, come dire, cancellando quel spero che Dumas me lo perdoni, però insomma l'idea era quello di trovare anche una chiave che fosse una chiave assolutamente inedita, per cui è un'invenzione che è nata quasi sul set. Nel primo film io sono molto legato a D'Artagnan, proprio perché mi consente di esprimere una mia qualità che raramente viene fuori, che è la mia assoluta idiozia, e io sono felicissimo del fatto che D'Artagnan me ne dia l'opportunità. Io sono scemo quanto se non più di lui, però a volte forzato a questa immagine di uomo serio e pensoso, per cui D'Artagnan mi dà il destro per liberarmi e liberare la mia stupidità, e nella sua stupidità però c'è un candore che io ammiro, e c'è anche un eroismo in questo suo candore, c'è una lealtà in questo suo candore, c'è una sua infanzia perenne che consente a me di rintracciarmi da qualche parte, però credo anche che consenta al pubblico di rintracciare qualche cosa anche della loro infanzia, e soprattutto dell'ironia, di cui in questo momento in particolare credo ci sia enorme bisogno. Lazzarino! De chi? De chi? Dei Romano! Luca! Tu moschettiero, guarda, mi sa che ne vado, non ne sa, non ne frega, se ne vado, non ne sa, non ne sa, non ne sa, no, non cambiate canale, non siamo precipitati nella barbagia, ma questo è un pezzo del film, cioè io sto ancora a ridere, tutti per uno, uno per tutti, nel quale Francesco Favino immediatamente entra nei Tazenda, c'è già anche su Wikipedia, se andate, è il membro aggiuntivo dei Tazenda. Ma cosa avevate bevuto in quel momento? No, in realtà nasce probabilmente da una bevuta della sera prima, nel senso che noi avremmo dovuto cantare un'altra canzone, dopodiché la sera prima siamo andati a cena e eravamo poco convinti di quella cosa che avremmo dovuto cantare, se non che abbiamo iniziato a fare una serie di ipotesi, di cui questa è risultata poi vincente. Ma la cosa abbastanza penosa è che per riuscire a girare questa scena ci abbiamo messo un'intera mattinata, perché non riuscivamo ad andare in fondo. E devo dire, pur essendo tutti e tre abituati a film comici e quindi in qualche modo a saperci gestire, è stato molto complicato riuscire a fare un'intera inquadratura senza che uno dei tre cadesse per terra ridendo. Però questa è la cifra di questo film, cioè è anche uno dei motivi per cui ci diverte molto farlo e stare insieme nel farlo, cioè la libertà che Giovanni ci dà anche di non solo di improvvisare, ma di andare ben al di là di quello che sarebbe consentito da qualsiasi logica, diciamo, di correttezza narrativa, ecco, per cui la possibilità non solo dell'improvvisazione, ma di svariare tra il 600 e altro è una delle cose più divertenti. L'aspetto più demenziale di questo film, secondo me, è la cosa che ci diverte di più in assoluto. A noi che lo facciamo, spero che sia così anche per chi lo vedrà. Un uccellino mi ha riferito della vostra brutta figura questa mattina con i cadetti. Maestà, ogni tanto bisogna dare un contentino a quei ragazzi per stimolarli. Io non ci dormo la notte. Vedervi qui schierati davanti a me, invecchiati in tre. Moschettieri, dopo 35 anni di onorato servizio, io ho deciso di regalarvi un trionfo. Scusate, maestà, prima noi eravamo quattro, no? E adesso poi ne siamo rimasti tre. E un tronfio solo, noi siamo tre. Scusate l'ignoranza, maestà. Che cosa? Il trionfo è la parata che il senato romano concedeva ai generali vittoriosi. Scusate, non sapevo di questo trofolo. Sei riuscito a far fare la figura dell'intellettuale Rocco Papaleo. Sì, ma da contratto però. Ah, ecco. Un altro dei momenti esilaranti di questo personaggio. Senti, c'è un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo film, è la figura di Giulia Michelini, di questo personaggio. Sì. Adesso voglio far sentire una piccola clip. Purtroppo in radio non si vedono i suoi movimenti, non si vede il suo movimento della testa, il suo movimento delle mani. Lei interpreta un navigatore antelitteram che si chiama Tom Tom, guarda un po', e però se ti immagini quando il Tom Tom ti parla, dice prosegui a destra, e questa cosa, te le immagini, io quando l'ho visto ho detto me la immaginavo così, cioè era proprio è la reincarnazione del Tom Tom. Ascoltiamo la clip. Stradine, salite, discese, pertugi di tutta la Francia. È finita l'epoca delle cartine geografiche, ora c'è lei. In onore di San Tommaso, che non crede se non vede, vi presento Tom Tom. Ferma! Tom Tom, ora che sono rimasti in tre, che fine faranno i nostri beneamati moschettieri? No, così però, scusa. Il cerbiatto no, dai. Il mare è vicino, il sole dardeggia nel cielo, i cavalli galoppano fianco a fianco. D'improvviso, là, sdraiato al sole, Aramis, nella città eterna dove tutto finisce e tutto ha inizio. Perché poi è anche un Tom Tom con capacità divinatorie, quindi ci servirebbe molto di questi tempi. Si attiva solo con i paradossi, e quindi per attivarla, per accenderla, Noi abbiamo un libro di paradossi di cui ignoravamo l'esistenza, ovviamente prima che ci venisse dato questo libro, che serve ad attivarla e possiamo quindi chiederle notizie sul futuro. Ecco. Giulia è una bravissima attrice, oltre che avere delle capacità acrobatiche davvero notevoli, ma a questo film questa volta si aggiungono anche delle altre figure, che sono Guido Caprino, che è un Cyrano straordinario, Anna Ferzetti, che è Enrichetta, diciamo la cattiva delle favole in questo caso, e i due bambini, che sono Federico Jelapi e Sara Ciocca. No, davvero, davvero un bel cast globale. Pier, per chiudere ti chiedo, visto che il Tontoma ha capacità divinatoria sul futuro, questo 2021, insomma, l'auspicio, ovviamente il grande auspicio è che tutto questo finisca, o quantomeno ci permetta di avvicinarci a quello che noi consideriamo la nostra vita normale. Nel 2021 di Pier Francesco Favino cosa c'è al momento, insomma, anche artisticamente, che cosa ti aspetta? Allora, ci sono tanti tanti progetti, il primo è un progetto internazionale per la regia di Amanda Sters, che dovrei girare in primavera, però poi nell'auspicio di Pier Francesco Favino c'è che non si disperda la possibilità di questo momento, cioè che questo momento si consenta, cioè che si riesca a progettare quello che questo momento nella sua drammaticità ci sta offrendo come possibilità, e cioè quello di scegliere la direzione in cui vogliamo andare come paese. Tra queste scelte io mi auguro che ci sia il teatro, il cinema, la cultura, e mi auguro che rimangano ancora parti identitarie dell'essere italiano, o crescano nell'essere parte dell'identità del cittadino italiano. Per tutto quello che come ambiente noi possiamo fare per questo avvenga, siamo ovviamente a disposizione, però mi auguro e vi auguro di rivederci al cinema presto. È un augurio che sposiamo in pieno, come i nostri ascoltatori sanno. Noi stiamo tutti i giorni, tutte le volte che andiamo in onda, raccontiamo come ci manchi il cinema in sala e come quello sia il presidio che vogliamo tenere alto. Grazie davvero a Pier Francesco Favino. Tutti per uno per tutti, stasera su Sky Original e poi su Now TV. Pier Francesco Favino, La Rosa Purpurea, ancora tanti auguri di Buon Natale. A voi, ci vediamo più tardi. Ciao. E sono tanti i film di Natale, oltre a Tutti per uno per tutti, che potete vedere di grande qualità su una piattaforma che è Mio Cinema, una selezione di film di Natale d'autore. Ne parliamo fra poco con Andrea Occhipinti. La Rosa Purpurea. Dov'è tua moglie? Tua madre. Lui non vuole mai chiamarmi mamma. No. Sono quella che ha il tumore. Sì, questo lo so. Non voglio più vedere mio fratello e non voglio più che mi rivolga la parola. Mai più. Non sono stata una buona madre, eh? No. Ho amato un po' i tuoi fratelli, ma sempre meno di tuo padre. Certo che siete strani nella tua famiglia. A lei non piace Silvia. Io invece le piaccio. Perché? Lei mi porta via chi non amo. Sono passati 5 anni, dimmelo che è successo. Perché Elisabetta ti odia tanto? Non l'ho mai capito, è andata così, è successo. La clip dal film di Arnaud de Plechin, Racconto di Natale. Perché vi abbiamo fatto ascoltare questa clip? Perché questo è uno dei tanti film, sono più di una decina, di una rassegna che è sbarcata da qualche giorno sulla piattaforma Mio Cinema, che si intitola Merry Cinema, e festeggia il Natale con una dozzina di film natalizi ma di qualità, natalizi ma d'autore. Quando pensiamo al film di Natale, ovviamente pensiamo come minimo a una commedia, o comunque ai buoni sentimenti, ai Natali di tanti film americani, anche molto belli a volte magari un po' meno. Difficilmente pensiamo al cinema d'autore, invece c'è stato tanto cinema d'autore, cinema di qualità negli ultimi anni, che ha contrassegnato con pellicole natalizie la proposta di Natale quando le sale erano aperte. Anzi, negli ultimi anni si assisteva sempre di più all'arrivo di film alternativi per chi volesse fare un Natale cinematografico che non fosse per forza il cinepanettone. I titoli della rassegna: da Juliet Naked La truffa dei Logan, da Florence di Stephen Frears a Gigolò per caso di John Turturro, da Moonrise Kingdom di Wes Anderson, appunto, a Racconto di Natale, o Il mio miglior amico di Patrice Leconte, senza dimenticare Banchetto di nozze di Ang Lee. Per parlare di questa iniziativa, questi film sono visibili tutti sulla piattaforma Mio Cinema al prezzo modico di 3,90 euro, quindi assolutamente affrontabile. È in collegamento con noi Andrea Occhipinti, deus ex machina della Lucky Red, ma anche inventore, un po' fra gli inventori di questa piattaforma Mio Cinema, che da qualche mese tiene compagnia alla gente che guarda i film forzatamente in streaming, aiutando però anche le sale cinematografiche, perché voi dovete fare una scelta e vedere quel film in quella sala, e una parte dei proventi arrivano alla sala fisica. È un modo di resistenza cinefila molto importante. Ciao Andrea e ben trovato in questa puntata natalizia. Buongiorno a tutti e auguri a tutti. Spiegaci un po' come è nata questa idea di Merry Cinema, perché avete voluto mettere insieme questa squadriglia di film? Dato che anche questo Natale purtroppo le sale cinematografiche sono chiuse, abbiamo scelto un'offerta di film, diciamo, già usciti nel passato, ma che possono essere disponibili per il pubblico in questo periodo. Sono film che non tutti, ma molti sono usciti, come dicevi te, in controprogrammazione nel periodo natalizio. Sono film diversi tra di loro, alcuni sono più divertenti, quasi tutti hanno un tono comico, ed è un'offerta variegata che vogliamo dare a quel pubblico lì che è interessato a quella tipologia di cinema. Ciao, io sono Annie. Fino ad ora ho sempre pensato che la mia vita fosse su misura per me. Ma sapete cosa? La musica della mia vita stava per cambiare. Juliet Naked è proprio nuda. Hai scritto tu questa recensione terribile. Bingo, hai fatto centro. Non avrei potuto spiegarmi meglio. Tucker Crowe. Tucker Crowe, cioè l'idolo di Duncan Tucker Crowe? Sì, sono io. Parlami di te, qual è la tua storia? La clip di Juliet Naked, tutta un'altra musica di Jesse Perez del 2018, che fa parte appunto di Merry Cinema, questa iniziativa della piattaforma Mio Cinema. Andrea Occhipinti, come sta andando Mio Cinema? Mi ricordo il momento del lancio, eravamo in pieno lockdown, insomma in qualche modo il mondo del cinema, della sala, cercava di riorganizzarsi utilizzando anche lo streaming. Come ti sembra sia andata l'esperienza? Qual è il bilancio? Come hai visto reagire la gente che è abituata invece ad andare in sala in questo periodo? Ma l'esperienza è assolutamente positiva, perché diciamo in questo campo d'azione, cioè del cinema d'autore, sta diventando una piattaforma di riferimento. Quello che abbiamo deciso di fare adesso è di rilanciare, di investire per migliorare la fruibilità dal punto di vista tecnologico in termini di app, di smart TV, cosa che dobbiamo ancora aspettare gennaio. Per Natale ancora non siamo preparati per questo sarà il prossimo passo, ma insomma come abbiamo capito c'è stata un'accelerazione su tutto quello che è digitale, e come noi abbiamo più volte detto, questa vuole essere un complemento a chi ama comunque vedere i film in sala. È un luogo dove chi ama questo tipo di cinema può trovare tantissime informazioni, può incontrare i suoi beniamini come attori e registi, per cui bene, sta crescendo. Ecco Andrea, la piattaforma streaming potrà servire anche a integrare il cinema quando torneremo delle sale, nel senso che fino adesso è stato sempre posto il problema in termini alternativi, quando non addirittura in contrasto, ma forse in realtà l'abitudine che gli italiani si porteranno dietro di aver imparato a vedere i film anche sulle loro smart TV, anche quelli di prima visione, forse un domani potrebbe integrare soprattutto la mancanza di sale in certe zone del paese dove le sale non ci sono, perché ci sono certi film che forse finalmente potranno essere visti anche da chi un cinema non ce l'ha sotto casa. Beh, in particolare questa piattaforma non mette in contrapposizione la sala cinematografica, certo, con la fruizione digitale, anzi come dicevo prima sono complementari l'uno all'altro, in termini di informazioni, in termini di rassegna magari tematica di un autore che sta per uscire con un film in quel momento, in termini di interviste di supporto che abbiamo per esempio coperto al Festival di Venezia, dei film che usciranno appena riapriremo, ma nello stesso tempo avrà anche dei contenuti in esclusiva, magari di film forse più di nicchia, che non avrebbero la forza di uscire in sala. Per cui un'offerta varia e variegata promozionale legata al mondo di tutto quello che ruota intorno all'uscita in sala. Questa è un po' l'idea. Certo. E per chiudere, Andrea, un pronostico. Adesso so che non è facile farlo, o almeno un auspicio tuo. Quando speri noi si possa tornare in sala? Guarda, questa è una domanda a cui non so rispondere, perché così, da quello che capisco, all'inizio speravamo di riaprire subito dopo le feste. ovvero a gennaio, ma mi pare di capire che questa ipotesi stia tramontando, non so se riusciremo ad aprire a fine febbraio. Una cosa che voglio far notare, per esempio in Spagna i cinema sono aperti, i cinema sono aperti e i casi di Covid sono diminuiti, per cui è una delle fruizioni o delle pratiche più sicure, perché al cinema comunque si è distanziato, c'è un sistema di reazione molto efficace, cioè la gente non parla, non si toglie la mascherina perché non mangia, non beve, per cui è uno dei modi più veramente più protetti e sicuri che si possa avere. Assolutamente, questo... mi auguro che veramente che possa sbloccarsi presto questa situazione. Assolutamente, sono d'accordo con te, adesso qui alla Rosa Purpura lo diciamo veramente da mesi, questo fatto che il cinema è stato penalizzato oltre ogni tipo di apporto praticamente nullo che abbia dato alla pandemia. Speriamo che il tuo febbraio si possa realizzare, non sarebbe neanche tanto male, tutto sommato. Grazie davvero ad Andrea Occhipinti, Mio Cinema, Merry Cinema, l'iniziativa di Natale, e tanti auguri. Auguri a tutti quanti, grazie, a presto. E con questo augurio, questo auspicio di trovarsi in sala, chissà, febbraio, sarebbe un bel risultato con Andrea Occhipinti e con tutto quello che vi abbiamo raccontato in questa Rosa Purpurea speciale di Natale. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo la puntata normale, fra virgolette, della Rosa Purpurea, 26 dicembre, sabato 26 alle 18, come tutti i sabati, la puntata speciale di Capodanno, il 31 dicembre alle 22, siamo proprio lì nell'imminenza con i botti in mano, e poi il giorno dopo, il giorno di Capodanno alle 18, ripercorreremo tutto il 2020 del cinema e poi saremo in onda di nuovo il 2 gennaio con la puntata normale della Rosa Purpurea. Insomma, non vi lasciamo senza cinema, grazie, ancora tanti auguri e un saluto da Franco D'Assisi. We'll be right back.